It's beginning to look a lot like Christmas. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città. Giovedì 30 dicembre, bentornati, benvenuti per chi è nuovo sul nostro programma Liberi Dentro Eduradio TV, che fa da ponte tra carcere e città e che va in onda un'ora al giorno tutti i giorni su Radio Città Fujiko, Teletricolore e Lepida TV. Io sono sempre Caterina con Antonella Cortese. Ciao Antonella. Ciao Caterina, buongiorno a tutti e a tutti. Alla conduzione di questo nostro programma, che è anche un po' il nostro divertimento, vero Antonella? Perché ammettiamolo, noi abbiamo tanta passione per questo programma e per il mondo del carcere. Assolutamente, assolutamente. E con noi, per fortuna, molte altre persone, perché ne scopriamo quotidianamente. Anzi, ti lascio il privilegio di presentare qualcuno. Grazie, perché aprendo la nostra finestrella degli auguri, anche oggi abbiamo gli auguri di Alessandro Bergonzoni, che è inutile presentarlo. Lui è uno scrittore, un drammaturgo, un paroliere, un cabarettista, che ha una sensibilità spiccata per il mondo del carcere, siccome lo frequenta, ci va a trovare i detenuti. È anche, sapevo, una persona che è chiamata nella giuria del premio Parole in Libertà per valutare i testi delle persone detenute che scrivono per questo concorso, e quindi vi lasciamo ai suoi auguri. Oh, quest'anno voglio cominciare i miei auguri così. Padri nostri che siete dentro anche di noi. E non vi lasceremo andare. Vi sentiamo ogni volta che parlate. Le vostre parole non hanno bisogno solo di voce, ma di ascolto. E basta alzare l'antenna del cuore e della mente per ricevervi. Vi vediamo con gli occhi mai messi ogni volta che guardate oltre le sbarre, perché non siete il verbo sparire, ma il verbo apparire. E voi tutti il suo presente e il suo futuro, che vi aspetta chiunque voi siate, qualsiasi cosa abbiate commesso. Il futuro non giudica, non maledice, non si vendica, non vi teme. Il futuro è grande quanto la vostra anima e come il mondo che vi attende, nonostante ci siano persone che non vi capiscono fuori di lì e spesso anche lì. Sappiate che noi facciamo gli stessi gesti che fate voi ogni giorno. Mangiamo, camminiamo, ci svegliamo e tutte le volte penso a voi. Vogliamo diventare le vostre guardie del corpo per difendervi sempre da ogni sopruso. Vi dedico dei libri, degli spettacoli, dei pensieri, delle azioni per portarvi con me. È come mettere dei nastri azzurri o rosa alle vostre sbarre. Voi rinascete ogni volta che vi ricordiamo e continuerete a crescere come una pianta che nessuno può estirpare. State dando una prova di grande forza di volontà in questo periodo. Nell'imposto dove vivete, i vostri muri non sono così alti per il rispetto e l'affetto che vi dobbiamo, che è luce, quindi passa facilmente da qualsiasi cancello di quel purgatorio. E chi ha detto chi è fuori e fuori, chi è dentro e dentro, non sa nulla della forza che può sprigionare chi sa cambiare, migliorare ogni giorno come cercate di fare voi, scrivendo, leggendo, sognando, lavorando e sperando. E anche pregando, ognuno il proprio Dio. Visitando molte carceri, io parlo di questo e continuerò a farlo fino a quando questo Stato non capirà il valore prezioso di una persona che si può pentire e può cambiare, fino a quando sarà chiaro che siete identici a noi in tutto e per tutto. E aggiungo, come di malattia si può guarire se si è curati bene, questo vale anche per voi. Il rispetto che magari non avete avuto nei confronti di qualcuno verrà usato per guarire le vostre ferite, non per farvi stare peggio. È inutile unire dolore a dolore, ma dobbiamo unire serenità a serenità. Lo faremo capire a chi non crede che potete, volete, dovete essere persone speciali e nuove. Il mondo non si divide in giusti e peccatori. Anche voi, che giusti non siete stati, dovete avere sempre giustizia e rispetto per poter redimervi. Dedico queste feste e questi auguri a voi, ma anche alla parte migliore di chi lavora e condivide la vita di ogni vostro giorno lì, anche se per ora la sera loro escono e voi ancora no. Uniti, vi dico grazie senza smettere di lottare per i vostri doveri, ma soprattutto per i vostri diritti sacri e intoccabili. Un augurio di gioia, di condivisione e di forza, sempre vostro, Alessandro Bergonzoni. E dopo gli auguri di Alessandro Bergonzoni, che ringraziamo per essere, aver partecipato al nostro programma. Continuiamo con le notizie di oggi. Ritorniamo su Zaki perché mi è giunta una lettera di solidarietà dal carcere della Dozza di Bologna, in particolare dai ragazzi del polo universitario penitenziario, che voglio ringraziare, in particolare Paolo e Donald, grazie davvero. Patrick, come sapete, è stato liberato l'8 dicembre scorso, ma l'attenzione verso di lui non è mai calata, tant'è vero che una notizia degli ultimi giorni è che ha riottenuto l'accesso al proprio account Instagram e Facebook. Lo ha scritto lui su Twitter, proprio lui che nei giorni scorsi aveva rivolto un tweet, un appello, ecco, per riavere l'accesso al proprio profilo dopo 2 anni di carcere. È una notizia che forse apparentemente sembra banale, ma noi non ci immaginiamo nemmeno che dopo 2 anni di prigionia si possa, in cui proprio c'è il vuoto totale, interrompi tutte le comunicazioni, tutte le reti social, che cosa significhi per lui aver riavuto l'accesso, il diritto di nuovo di mettersi in comunicazione col suo mondo. È proprio così, non è banale, perché una volta usciti, ricercare le proprie reti, anche social, le proprie memorie è fondamentale anche per una ricostruzione della propria identità. Ma in questo caso a esprimere solidarietà e felicitazioni per la libertà di Zaki c'è anche questa lettera che vi dicevo all'inizio di Paolo e Donald, che ringrazio e a cui dico, gli ho scritto io, gliel'ho mandata su Facebook, sul suo profilo Facebook questa lettera, quindi aspettiamo che ci risponda. E scrivono: speriamo che Patrick possa tornare presto qui a Bologna per riprendere a studiare nella nostra università. Quando il suo calvario sarà definitivamente terminato, desideriamo poterlo invitare qui da noi presso il nostro polo universitario penitenziario del carcere Rocco D'Amato di Bologna, per potergli trasmettere questo sentimento di solidarietà che in questi 2 anni ci ha sempre accompagnati, conoscendo in prima persona cosa significhi essere recluso. Ricordo infatti, tra l'altro, che il calvario di Patrick non è ancora finito, perché è ancora sotto processo in Egitto con una prossima udienza fissata per il 1° di febbraio. Ma ancora una piccola pausa musicale e ci rivediamo tra pochissimo, sempre su Liberi Dentro. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store. But the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere. E rieccovi e bentornati, riprendiamo le notizie, siamo sempre su Liberi Dentro di Radio TV e con te, Antonella, parliamo di Amazon. Cosa ci racconti? Vi racconto una cosa che è successa, che ho letto, che ho visto in realtà su Bloomberg News. E il 10 dicembre il crollo di un magazzino di Amazon, nel quale sono morte tra l'altro almeno 6 persone, ha riacceso le preoccupazioni tra i suoi operai, perché l'azienda gli ha di nuovo vietato di usare il proprio telefono nelle aree di lavoro. Il magazzino di Edwardsville, Illinois, vicino a St. Louis, è stato ridotto in macerie al passaggio di una serie di tornado che hanno devastato 6 stati, lasciando una scia di distruzione lunga più di 400 chilometri. Amazon ha vietato per anni ai lavoratori di portare i loro telefoni all'interno dei magazzini, chiedendo di lasciarli nei veicoli oppure negli armadietti dei dipendenti prima di passare attraverso i controlli di sicurezza, che poi includono il metal detector. L'azienda ha fatto marcia indietro soltanto durante la pandemia, ma il divieto è stato gradualmente reintrodotto nelle strutture e ora in tutti i magazzini Amazon degli Stati Uniti è di nuovo proibito portare il cellulare. Ma andiamo un po' alla radice del problema. Com'è possibile? Quando si lavora non si utilizza il cellulare? Ok, e questo ha un senso, però tieni presente, Caterina, che negli Stati Uniti il Servizio Meteorologico Nazionale emette avvisi di maltempo estremo, e quindi non parliamo di quando in Italia piove un po' di più, ma quando ci sono i tifoni, tornado, tramite messaggi di testo, cioè ti mandano un SMS. E gli americani seguono con particolare attenzione il meteo, soprattutto quando si prevedono eventi importanti e potenzialmente pericolosi. E il Servizio Meteorologico Nazionale aveva mandato a tutti l'avviso del tornado in arrivo 30 minuti prima del crollo. Però se non hanno i telefonini a portata di mano, hanno avuto sicuramente l'avviso da parte dell'azienda, però non hanno potuto avvisare i propri cari, non si sono potuti organizzare in buona sostanza. E 5 dipendenti di Amazon, tra cui 2 che lavorano di fronte all'edificio crollato, hanno infatti dichiarato di voler accedere a informazioni come gli aggiornamenti su eventi meteorologici potenzialmente mortali attraverso i loro telefoni, senza interferenze da parte delle aziende. E hanno aggiunto che i telefoni possono anche aiutarli a comunicare con i servizi d'emergenza, appunto con i loro cari, come ti dicevo, se dovessero trovarsi intrappolati. E, diciamo che un lavoratore, anzi più di uno in realtà, si sono espressi in modo molto, diciamo, acceso, molto critico rispetto appunto all'azienda dell'Illinois, perché dice che se applicheranno il divieto dell'uso dello smartphone, molti di loro si dimetteranno, compreso una lavoratrice di Amazon nell'Indiana che ha detto che sta ricorrendo addirittura ai congedi pagati ogni volta che l'azienda decide di rimanere aperta nonostante le previsioni non siano delle migliori, perché la paura di rimanere incastrati o di non poter rientrare a casa, magari se hanno figli piccoli, insomma tutta una serie di problemi, e, insomma, preferisce prendersi un congedo piuttosto che rimanere incastrata senza telefono. È chiaro che sta emergendo sempre di più che questa è una notizia legata al diritto dei lavoratori più che a un divieto dell'azienda di usare il telefonino per questioni legate al lavoro stesso. È una questione di diritti, quindi va rispettata. Allora ti chiedo se che cosa ha risposto Amazon alle pronunce di questi lavoratori. Guarda, Amazon non ha voluto commentare i timori sollevati dai lavoratori sulla sua politica relativa ai telefoni. Le preoccupazioni sull'accesso al telefono portano in evidenza proprio quello che dicevi tu, in realtà la profonda sfiducia tra i dirigenti che stabiliscono regole in nome più della produttività e dell'efficienza che relativa al diritto, diciamo così. E i lavoratori a ore, soprattutto perché poi ci sono tantissimi lavoratori a ore, lavoratori stagionali che girano in tutti gli Stati Uniti durante alcuni periodi dell'anno in particolare, che sono impauriti per la loro sicurezza, che sicuramente viene prima della movimentazione dei pacchi. In più è successo che il fondatore di Amazon, che è Jeff Bezos, come tutti sanno, l'uomo più ricco del mondo dopo Elon Musk, ha alimentato questi sentimenti, diciamo, di critici, mettiamola così, trascorrendo la prima parte di sabato 11 dicembre, il giorno in cui è successo tutto questo, a celebrare un lancio spaziale in una delle sue aziende Blue Origin in compagnia di altre celebrità. Il tutto mentre le squadre di soccorritori nel magazzino scavavano tra le macerie alla ricerca dei corpi. E intorno alle 20 ora locale Bezos ha twittato per esprimere la sua vicinanza. E c'è da dire che le strutture dei magazzini ovviamente sono costruite con standard, secondo gli standard locali, quindi è chiaro che sono a norma di legge, però quando ci sono eventi talmente grossi che è necessario veramente poter prendere autonomamente una decisione, resto a casa, vado via, chiamo, vedo come stanno i miei, insomma non avere un cellulare in quei casi è veramente una cosa complicata. Comunque, torniamo un attimo alla musica e ascoltiamoci i bravissimi Depeche Mode con Personal Jesus, che è scritta proprio, è stata scritta da loro. E dopo ci sono state varie persone che hanno fatto cover, però è proprio, diciamo, una canzone di questo meraviglioso gruppo. E poi ci ascolteremo, dopo la canzone, Arianna Augustoni e Alessandro Tommasi con Cucinare al fresco. You're out, passing out. eccovi, bentornati a tutti i nostri ascoltatori, sempre su Liberi Dentro e Duradio TV. Dopo il notiziario che avete appena ascoltato, riprendiamo con i nostri due ospiti, Arianna Augustoni, coordinatrice e giornalista del progetto Cucinare al Fresco. Ciao Arianna, bentornata. Ciao. E Alessandro Tommasi, che è l'art director. Ciao Alessandro. Ciao a tutti, grazie di essere qui. Ciao. Allora, Cucinare al Fresco è bellissimo, mi sto appassionando, tant'è vero che sfogliando il vostro ricettario, lo ripetiamo per gli ascoltatori che magari ascoltano l'intervista per la prima volta adesso, è un ricettario Cucinare al Fresco prodotto all'interno del carcere di Como, e quando ho sfogliato il ricettario ho visto che ci sono ricette da varie tradizioni, c'è per esempio le arancine siciliane, ma c'è anche il tagine, che è un tipico piatto marocchino. E quindi io ti chiedo, Arianna, se il fatto di condividere un ricettario di questo tipo e fare questa attività all'interno del carcere è comunque alla fine un modo per attivare il cosiddetto scambio interculturale e anche la rieducazione all'interno delle attività carcerarie. Ricordiamoci che la cucina accomuna tutti i detenuti, perché molto spesso mi trovo in aula delle persone che faticano a scrivere, per cui dobbiamo parlare con loro e si instaura immediatamente un rapporto di collaborazione. Detto questo, la cucina è sicuramente uno strumento che riesce a fare sistema e a fare squadra. Tu giustamente parlavi del tagine, ma ci sono tantissime altre ricette e tra l'altro c'è un grande confronto tra le persone, perché per alcune culture gli ingredienti sono di un certo tipo, per altri di un altro tipo. Ciò nonostante, non c'è una discussione che porta poi a una rottura. Questi confronti tra i detenuti redattori portano sicuramente a nuove storie, a nuove avventure, a nuovi piatti, a nuove ricette. Chiaro, parliamo invece di strumentazioni per cucinare. Forse non tutti sanno che, fra la cittadinanza che ci ascolta, in carcere sono ammessi pochissimi oggetti, ma è anche vero che la creatività aguzza l'ingegno, vero Arianna? Ne ho scoperte di tutti i colori, di tutti. L'ultima è stata di un detenuto opera che mi parlava della grattugia e dico, ma di cosa stai parlando? Come fai? Il coperchio delle scatolette di latta, quelle con la linguetta, quelle per le sardine, per spiegarci il mais piuttosto che i piselli, la bucano questo coperchio, lo girano e lo utilizzano come grattugia. Allora viene normale chiedere come. Non potete utilizzare i coltelli, bisogna stare attenti alle cose, agli oggetti a punta, e ti fanno utilizzare questo. Lui in maniera molto tranquilla mi dice, guarda Arianna, se io dovessi utilizzare in modo improprio questo strumento, vengo presa, mi tolgono dal corso, mi rimettono in una sezione di quelle chiuse o comunque con più regole e io torno indietro. Ne va del mio percorso, ne va della mia pena, ne va del mio essere e dell'aver compreso che forse quello che ho commesso fino adesso non era corretto. Piuttosto che il mattarello per stendere la pasta, uno dice non si può, allora utilizzano i manici delle scope, li avvolgono nella stagnola e li utilizzano per quello, piuttosto che i rotoli dello Scottex, li utilizzano in quel modo. Ma sono tantissime, il forno, vabbè, è normale, credo sappiano tutti, io non lo sapevo, tant'è che non riuscivo a comprendere come funzionasse. Un redattore un giorno mi si è presentato con una borsa con le due bombolette da campeggio, la pentola spaccafiamme e la pentola nella quale cucina, per cui anche lì mi ha dovuto spiegare il forno, il famoso trapezio di carta stagnola con un ingresso e una fuoriuscita per far circolare l'aria. Poi cosa mi viene in mente? Ma potrei raccontarne così. Poi ci sono strumenti che possono essere dichiarati, altri un po' meno, ma che fanno parte del gioco e diciamo delle regole consolidate all'interno delle carceri. Ecco, mi viene da dire questo. Tuttavia, con la pochezza di quello che hanno, si riesce a fare tutto, praticamente. Pensa che fanno le torte nelle pentole, le pizze nelle pentole, le focacce, e questo sarà un argomento che andremo a trattare nel corso del 2022, perché la loro abilità è anche questa. Alessandro, io ti chiedo qual è il motivo che ti ha spinto ad accettare di buon grado di collaborare con Cucinare al Fresco? Ma sai, allora, nel mio settore, per il lavoro che svolgo, non è facilissimo, no, trovare qualche sbocco di parte utile e sociale, insomma. Quindi questo progetto qua è stato un po' una sorta di manna dal cielo, perché ho detto, caspita, finalmente c'è l'occasione di mettere a servizio di persone che ne hanno bisogno le nostre capacità, perché sai, noi ci muoviamo in un settore che è molto tecnologico, quindi è difficile agganciarsi a determinati ambiti, soprattutto quello carcerario, insomma, che io ignoravo totalmente. Grazie ad Arianna ho imparato a conoscere anche tante dinamiche, come stiamo scoprendo anche oggi qui durante questa intervista. Quindi ho detto, finalmente possiamo mettere a disposizione di chi non ha queste abilità le nostre capacità. Per noi che svolgiamo questo lavoro tutti i giorni non è neanche una cosa così improponibile, insomma. Quindi ho detto subito di sì, e quindi benvenga, insomma, questa possibilità di aiutare. E poi ti ripeto, la grandissima soddisfazione di sapere, grazie ad Arianna, la reazione che hanno avuto queste persone a prendere in mano l'elaborato finito, insomma, un oggetto fisico, un ricettario, una rivista, un libro. E cavolo, sono soddisfazioni, lo sono anche per noi, perché veramente è un modo, se vuoi, di fare del bene anche a queste persone, dargli un motivo in più per dire mi impegno e domani esco e posso anche dire guarda cosa ho fatto mentre ero là, insomma, che secondo me è una delle cose importanti per chi sta lì dentro. Guarda, ti faccio una domanda. Sappiamo che è in atto la riforma della giustizia, no? Quindi ci saranno dei cambiamenti nell'ambito dell'aspetto carcerario. Se tu dovessi fare una proposta alla ministra, ti immagini, no, di mettere al servizio quello che è il tuo campo di lavoro per le carceri, cosa ti verrebbe in mente di proporre? Senti, in generale io sono sempre stato convinto che è inutile detenere delle persone tutto il giorno a fare nulla, perché comunque cosa succede? Uno, che queste persone non hanno motivazione e diventa alienante, ma soprattutto il giorno che escono di là non hanno imparato nulla di nuovo e sono punta a capo, nel senso che se non hanno nulla queste persone cosa fanno una volta uscite? Quindi secondo me è importantissimo dare competenze, dare un lavoro, dare un qualche cosa che renda possibile veramente reinserire le persone una volta che escono dal carcere, perché se io so fare qualcosa, se ho dimostrato di fare qualcosa, se magari, perché no, questo non so se è un'utopia, ma se queste persone le facciamo lavorare, gli si dà anche un piccolo stipendio, gli si tiene via lo stipendio e quando escono glielo do, e caspita, la reintegrazione in società è tutta un'altra storia. Se invece teniamo delle persone tutto il giorno a guardare il cielo, e allora dov'è la rieducazione e il reinserimento? Secondo me non funziona, diventano solo un costo anche per la società e non gli diamo niente a queste persone. Quindi se hanno fatto quel che hanno fatto, spesso e volentieri, è perché non avevano scelta, e quindi diamogliela a questo punto una scelta. Questo è il mio pensiero, poi può essere condivisibile o meno, però credo che sia il pensiero un po' di tutti questo in realtà. Arianna, concordi? Concordo in parte, nel senso, Ale, è giustissimo quello che hai detto. L'opinione pubblica non è d'accordo con noi, perché molto spesso le persone dicono l'hanno fatta, buttiamo via la chiave. E qui invece sono poi d'accordo con Alessandro nel dire che dobbiamo assolutamente dare dei percorsi riabilitativi, dobbiamo tirar fuori le loro qualità, e ti assicuro che molti di questi hanno delle qualità e delle capacità. Chi non le ha è perché proprio non le vuole sfruttare, non le vuole utilizzare, ma non lo fa né fuori né dentro né una volta che sarà fuori di nuovo. Perché qualche detenuto me l'ha sempre detto: Arianna, io ho il crimine nel sangue. E sono quelle affermazioni che ti gelano e dici: cosa vuol dire? Allora io gli dico: io avrei paura, e mi dice: la tua paura è giusta, perché se non ne avessi di paura in tutto ciò che fai, ti troveresti nella mia situazione. Questo secondo me è un po' esagerato, si intende, però ci sono quelli che si rendono conto di non volere intraprendere un percorso di formazione che potrà poi utilizzare all'esterno. Sì, è anche vero che c'è reato e reato, e come diceva Arianna c'è persona e persona, quindi magari fosse possibile, entra 100, esce 100, non è così, sappiamo bene che purtroppo la natura umana è inspiegabile sotto molti aspetti, però laddove si può, perché no, e dove non si può, i miracoli purtroppo non li fa nessuno, bisogna essere anche molto pragmatici e oggettivi in questo campo, insomma, cioè anche il buonismo al 100% non ha senso di esistere, secondo me, quindi... Mi piace questo dibattito, tant'è vero che invito la nostra cittadinanza e anche chi ci ascolta dalle case circondariali, spesso lo fate, grazie che ci scrivete, redazioneliberidentro@gmail.com se volete dialogare con Alessandra e con, con Arianna e con Alessandro, oppure la mail di Cucinare al Fresco, che ce la dici tu? Non abbiamo una mail vera e propria, abbiamo una redazione che accetta ogni consiglio, ogni suggerimento, quindi noi invitiamo tutti gli ascoltatori che siano reclusi nelle strutture italiane di mandarci le loro ricette realizzate con prodotti e strumenti a loro destinazione e a loro disposizione, e l'indirizzo è Carcere del Bassone 2200 Como, area Bassone, alla redazione di Cucinare al Fresco. Grazie, ancora una pausa musicale con Simon & Garfunkel, ci rivediamo domani per parlare di storie di vita. A domani, grazie mille. Rieccovi, siamo sempre giunti ai saluti di fine puntata, dove vi annunciamo la rubrica, le rubriche in questo caso a seguire. Abbiamo le pillole di Antigone su Santa Maria Capua Vetere, come avete saputo sono ripresi i processi, e quindi a seguire poi ci sarà anche la rubrica a cura di Paolo Aleotti, il nostro collaboratore di redazione, che ringraziamo sempre, con la rubrica Teatro Oltre le Sbarre. Scriveteci a redazioneliberidentro@gmail.com e come al solito un saluto da me, che sono Caterina, da Antonella Cortese, dal nostro Enea Flacco al montaggio delle puntate e dalla nostra tirocinante Diana Bota. Ci rivediamo domani, grazie a tutte e tutti. Liberi Dentro Eduradio, il programma che fa da ponte tra il carcere e la città.